Il terzo anello, ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi, di Federigo Tozzi. Pietro era diventato così negligente che verso il mese di maggio il rettore non lo volle più alla scuola. Domenico lo percosse con lo scheggiare dei calzoni fino a far piangere anche Anna. Ma il giorno dopo nessuno gli disse più niente. Anna spiegò a Rebecca: «Sono le imprecazioni di quelli che ci vogliono male». Fece tutti i giorni alcune preghiere ad un santo, ma non trovò mai il modo di parlarne sul serio al marito, che le rispondeva sempre: «Oggi non posso». Se lo tratteneva per la giubba, egli la lasciava con queste parole: «Pensaci tu a lui, anche tu ora». Ella non osava di più, temendo che se la rifacesse con Pietro, stordendolo a forza di pugni con il pretesto di essersi arrabbiato anche troppo. Nemmeno la notte era possibile, perché appena gliene discorreva, stringeva i pugni e gridava: «Lasciami dormire, ho sonno! È da stamani che lavoro, e riposati anche tu!» Oppure rispondeva: «Hai contato bene i denari incassati oggi? Prima di venire a letto dovevi contarli, è necessario». Se ella per rendergli il cambio stava zitta, le alzava il capo dal guanciale: «Rispondi!» Aspettava un poco, tentando di questionare, ma poi si addormentava. Durante una loro contesa in bottega, Pietro saltò fuori a dire: «Imparerò il disegno!» Lo scritturale di un notaio, che aveva finito all'ora di mangiare, fece un'enorme risata. Pietro lo guardò a lungo, sbigottito dei suoi occhi dolci e contenti che lo compativano. Era un uomo grasso, dal volto lucido e purpureo, sparso di bitorzoli. Aveva un vestito chiaro e una catena d'oro, i capelli biondicci, la fronte bassa. Disse a Domenico con convinzione tranquilla: «Non gli dare retta. Fategli imparare il vostro mestiere. Voi trattori guadagnate quanto volete». Tutti risero, perché alludeva al conto che doveva pagare. Pietro, mentre una specie di formicolio lieve attraversava il suo volto, esclamò: «Che importa a lei?» Costui trasse da un astuccio di cuoio un bocchino d'ambra cerchiata d'oro e vi infilò mezzo sigaro. Poi disse: «Va a comprarmi una scatola di fiammiferi», e gli gettò un soldo sulla tavola. Pietro guardò anche suo padre. Tutti lo fissavano. I volti e gli occhi bruciavano la sua anima. Il cuore gli batteva. Domenico disse: «Vai dunque!» Egli afferrò la moneta e corse dal tabaccaio. Allora lo scritturale rise tanto che fece il viso congestionato e tra gli scoppi di tosse aggiunse: «Fatelo ubbidire più che potete!» Anna soffriva di queste domestichezze, ma per paura di perdere gli avventori non ci si metteva tu per tu. Invece Domenico se ne esaltava e gli pareva sempre più di aver ragione. E diceva a Pietro: «Stai attento a quello che ti dico io. Non hai più bisogno di studiare. Basta che tu sappia fare la moltiplicazione. Dovrebbero essere abolite le scuole e mandati tutti gli insegnanti a vangare. La terra è la migliore cosa che Dio ci ha data». Anna, scontenta, rispondeva: «Codeste sono idee tue». Domenico chiedeva con scherno: «Quanto tempo ci sei andata a scuola tu?» Non ci mancava che da contrastare con la moglie. Ella scuoteva la testa. «Noi, senza saper nemmeno la nostra firma, abbiamo fatto una fortuna». Il cuoco era andato sull'uscio di cucina a fumare una cicca, appoggiandosi al muro con le spalle e con la testa. La cantiniera portava i piatti e lo sguattro, saltando come un ragazzo, corse a dire allo stagliere che attaccasse il cavallo. Domenico bevve un altro bicchiere di vino, poi toltesi la dentiera per pulirla con la salvietta di nascosto, tenendo le mani sotto la tavola. Anna, per cucire, prese una camicia. Finalmente, Domenico, con un colpo del suo tovagliolo, si levò le briciole da sopra i calzoni, si fece spolverare da Rebecca e untare le scarpe da Tiburzi, dando nel frattempo qualche ordine. In punta di piedi andò dietro il figliolo che tamburellava con le dita sopra un vetro, accompagnando il mugolio della sua voce a bocca chiusa. Gli dette una manata sul collo e disse: «Vieni in campagna con me». Pietro, Senza rispondere niente, saltò sul legno già attaccato e furono appoggio a meli poco prima del tramonto. Ghisola, sbucando da una cantonata della capanna, lo vide solo e fermo con le mani in tasca nel mezzo dell'aia e lo rimproverò seria. «Che cosa fa qui? Perché non è venuto prima? Una volta non le pareva vero, ma non importa». E aggiunse: «So quel che vuol dirmi». Egli pensò: «Sì, lo sa. Gli altri sanno tutto di me. Io no». Quella sua vita interiore che si sovrapponeva sempre. Come si disperava di poter gustare soltanto dopo e nel silenzio di se stesso quel che aveva trovato e non detto. E si giudicava perciò inferiore agli altri. Parlava bene con Ghisola, soltanto quando se lo immaginava, specie appena desto, e divenne più vergognoso. Il colletto gli dava fastidio al mento. Ghisola lo guardò come se proprio ci ridesse anche lei. E allora egli si mise a picchiare calci a un ulivo, che era lì, perché la smettesse. Ma quando risollevò gli occhi, Ghisola lo guardava ancora più fisso, con la bocca ridente, per burla. Non c'era più dubbio. Il sole tramontò tutto, e un brivido passò sopra Pietro, che non poté più sopportare quel sorriso, volendo perfino dimenticare d'averlo visto. Si rimise a testa bassa, pensando che avrebbe dovuto capire perché non gli piaceva. Ghisola si riavviava i capelli, tenendo in mano le forcelle per fargli vedere che erano nuove, e prima di rimettersele, con una alla volta, gli bucò le mani. Ma egli non si mosse. Si vedevano fitti piegarsi i fili d'erba in cima ai quali saltavano gli insetti. Mentre Ghisola lo bucava, Pietro pensò: «Certo sa quel che voglio, ma bisognerebbe che glielo potessi dire, è necessario». Le sue calze rosse gli facevano coraggio, ma non potendo pronunziare nessuna parola, si avvicinò di più a lei quasi tremando. Tra gli olivi ci si vedeva appena, e la terra era già bruna. «Che vuole? Me lo dica di costì!» Ghisola s'accorse che non distoglieva gli occhi dalle sue calze, ma con la sottana troppo corta non poteva nasconderle. «Lo sai?» Il volto di lei divenne dolce e pudico. «Lo sai? Dimmelo!» Ella si coperse di un rossore che le cambiò la fisionomia. «Lo so!» E siccome si faceva sempre più vicino, lo allontanò con le mani magre e dure. Pietro era così ebbro che quasi vacillava. Gli occhi di Ghisola lo fissavano sempre. Vedeva soltanto quegli occhi e credette che tutta l'ombra dietro di lei e il campo insieme si muovessero secondo i suoi gesti. «Mi lasci ora? Ci parleremo un'altra volta. Un'altra volta, ho detto!» Gli parve che la sera gli togliesse la carne, lo facesse sparire. Ghisola sussurrò: «Le voglio bene». E scappò dalla parte opposta della capanna. Il padrone si incamminava verso l'aia con le sue scarpe enormi, respirando forte e alzando e abbassando un poco il capo. Pietro continuò a starsene lì, sbocconcellando con un sasso che si era ritrovato in tasca alla cantonata della capanna. Si sbucciava le nocche, ma non sentiva niente. Domenico lo guardò e si mise a ridere con Enrico, l'assalariato che lo seguiva. «Sei matto oppure no? Che ci fai costì a sciupare il muro?» E poi all'assalariato: «Quell'altra cialtrona almeno è scappata a tempo». «Oh, ma per ora son tutte e due ragazzi, io credo che ruzzino sempre». Li difendeva supponendo che il padrone ci avesse piacere per Giacco e Masa, ma Domenico, contento di poterlo contraddire con la sua autorità, rispose: «Io me ne intendo più di te, sta zitto». Enrico convenne allora. Comincerebbero presto. E inghiottì, come faceva sempre dopo aver parlato. Pietro s'era impaurito del rimprovero e già aveva dimenticato Ghisola, sebbene gliene rimanesse un fascino troppo forte per lui. Si incamminò verso il padre che voltava il cavallo alla strada, menandolo per la briglia. «Sali su». Egli obbedì, cercando di pulirsi le mani terrose e non guardando in volto nessuno. Il cavallo non voleva star fermo dinanzi al cancello aperto, e allora Domenico cominciò a sferzarlo sopra i ginocchi. La bestia si ritrasse indietro, alzando le gambe anteriori, Il calè si urtò contro il muro. «Sta fermo! Devi imparare! E se non impari...» Egli dette una sferzata. «Se anche tu non impari a fare il tuo dovere...» Egli dette un'altra sferzata. «Te lo insegno io! Devi star fermo!» Voltò la frusta e gli batté il manico sulle froge. Il cavallo scosse la testa e Pietro fece l'atto di scendere. «Tu stai al tuo posto. Se scendi, frusto anche te!» Tutti gli assalariati guardavano inquieti ed erano impazienti che il padrone se ne andasse, perché temevano che se la prendesse anche con loro trattandoli male, pensando magari di poterli bastonare. Il cavallo si fermò. Domenico dette la sferza a Pietro e si riabbottonò la giubba dinanzi alla bestia. «Bada che io voglio essere obbedito. Non vedi che stai fermo? Ora farò tutto il mio comodo e poi salirò». E per farne la prova si sbottonava e si riabbottonava la giubba, interrompendosi quando la bestia smuoveva la testa. Affibbiò meglio una delle redini e salì, fermandosi con un piede sul montatoio. Poi, prendendo lo slancio con le mani attaccate al calesse, si buttò accanto a Pietro, a cui gridò: «Vai più costà!» Pietro era imbarazzato che non si mosse. «Ma vai in costà, imbecille!» E subito agli assalariati: «Fate il vostro dovere, altrimenti vi mando via tutti! Domani quelle prese devono essere vangate!» «Sì, signore, non dubiti! Se non fossimo capaci a vangarla in quanti siamo e in tutto il giorno! Almeno che non piova!» Il padrone guardò quello che aveva detto così con l'aria di avventarglisi addosso e disse con una voce che pareva uno scalpello percosso sopra una pietra: «Se piove, tramuterete il vino. Tu, Giacco, consegnerai le chiavi del tinaio. Le hai apposta?» «Sì, signore, come vuole.» Finalmente si ricordò della trattoria, guardò l'orologio e vide che non poteva più indugiarsi, e allora li lasciò. Il tramonto era stato rapido e pieno di quelle nuvole che portano la pioggia. Pietro teneva le mani in tasca, pensando che avrebbe fischiato se fosse stato solo. Pareva nell'oscurità che le gambe del cavallo battessero insieme. Domenico guidava, irritandosi perché non aveva imposto ai contadini di aprire le buche per gli olivi. Temendo che i suoi ordini non fossero eseguiti con precisione, con l'animo ansioso, gli pareva di seguire quel che facevano e si struggeva di non essere sempre accanto a loro. Talvolta, per la voglia di sorprenderli, diveniva smanioso e anche più violento. Pensò di tornare addietro per assicurarsi che nessuno era rimasto a perdere tempo nel mezzo del piazzale, magari a parlare di lui. Guardò le nuvole e gli venne voglia di frustarle per rimandarle giù. Intanto un sogno cupo aveva invaso Pietro. Il cavallo era trascinato all'inverso, con il calesse, dentro una spalancatura interminabile della sua anima. Ad un tratto, con un moto improvviso e involontario, dopo aver sentito il sapore della propria bocca, sospirò e mosse la testa innanzi, quasi fosse per cadere. Domenico gridò: «Che hai?» Quando Anna aveva avuto le convulsioni, restava tutto il giorno stesa nella poltrona, dentro la trattoria. Il suo volto diventava bianco e Rebecca, assistendola, le slacciava il busto. Ma siccome i cuochi e i camerieri avevano sempre qualche cosa da chiederle, ella riapriva gli occhi, guardava fisso e poi, scuotendosi tutta, rispondeva. Perché il marito non si inquietasse di più, non voleva andare a letto. Ma in quei momenti sentiva una grande angoscia, perché era incapace di badare a Pietro. Le sembrava di non appartenere più alla vita, di non avere mai fatto niente per lui. E allora quella specie di quiete che le dava l'agiatezza era sempre sciupata dal ricordo della sua miseria. Ella diceva: «È impossibile essere contenti come vorremmo». E la stanchezza di esser vissuta era così amara che aveva paura di non sentirsi più buona. Il sentimento della morte le era sempre presente e non le bastava credere in Dio. Ella si metteva a guardare Pietro con questo sentimento e ne provava uno sconforto che le faceva perfino paura. I suoi nervi scossi dalla convulsione le prolungavano un senso indefinibile di dolore desolato, perché era avvezza a dover guarire da sé, senza mai sentire che gli altri potevano fare qualche cosa. Ma sperava di guarire, non perché credesse al medico, ma perché aveva Pietro. Ella non gli sapeva parlare. Capiva che egli cresceva senza che riuscisse a farselo proprio suo, a dirgli almeno una di quelle parole che avrebbero dovuto consolarla. Anche quando l'aveva vicino, restavano come due che avessero l'impossibilità di intendersi. Pietro evitava sempre di farle sentire che le voleva bene, per paura di diventare troppo obbediente. Ed ella si disperava troppo e senza ragione di qualche sua scappata. E perciò Pietro temeva quando gli aveva tante cure, mentre ella, non avendogliele potute fare, cercava un'altra volta di imporgliele. «Tu non rispetti la mamma!» Egli allora si esasperava, svignandosela, senza nemmeno ascoltarla. Anna ci piangeva, dicendolo a Rebecca, che le domandava con un mezzo sorriso: «Ma perché se la prende così?» E siccome glielo aveva allattato e desiderava che fosse affezionato anche a lei, ci sentiva quasi piacere. Ma Anna, mai accortasi di questo, rispondeva: «Non lo devi scusare tu, io». E Rebecca era per offendersi. Quando poi Pietro la vedeva piangere, credendo che fosse cattiva, gli veniva voglia di far peggio. Francesco Siciliano ha letto Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.